fortuna. Abbiamo già avuto modo di vedere come agli inizi del XIII secolo la città, rafforzata da un'economia prospera e da una vita civile sempre più vivace, ripensò la sua struttura urbanistica che lascerà tracce indelebili fino ai nostri giorni. Ne sono un esempio la piazza e i palazzi pubblici sorti in questo periodo, ma anche la costruzione di una nuova cinta muraria, chiamata comunemente la Circla, e che oggi corrisponde più o meno all'area compresa entro la circonvallazione dei viali. Tuttavia, sappiamo che già nel V secolo Bologna era dotata di una cinta muraria, costruita probabilmente sull'onda delle razzie delle orde barbariche che si susseguivano incessanti al tramonto dell'Impero Romano d'Occidente. Era questa la cerchia delle mura di Selenite. Non è possibile dare una datazione precisa alla costruzione di queste mura, ma sappiamo che la Bononia del 402 resistette all'assedio del re visigoto Alarico, il che fa presupporre che disponesse già di una struttura difensiva efficiente. La selenite è un minerale oggi quasi dimenticato, una tipologia di gesso di cui sono ricchi i colli orientali bolognesi, in particolare il Parco dei Gessi e i Calanchi dell'Abbadessa. È detta pietra di luna per via dei riflessi argentati, in grado di evocare paesaggi lunari. Immaginate di tornare indietro nel tempo, all'epoca della reggenza di San Petronio, e di essere un pellegrino che, magari durante la notte, dopo un lungo cammino, incontra la propria meta, una città completamente circondata da mura così brillanti da sembrare una visione onirica. Doveva essere uno spettacolo davvero suggestivo. Tuttavia va specificato che in realtà la dicitura pietra di luna, associata alla selenite, è scientificamente inesatta. In chimica, la pietra di luna, moonstone in inglese, è una varietà di feldspato potassico detto anche adularia ed è un minerale traslucido che possiede un particolare tipo di iridescenza. La selenite era usata già in epoca romana. Era questo il materiale con cui era stato costruito il teatro di Via dei Carbonesi, quello che fu poi ristrutturato da Nerone utilizzando il marmo, ma anche l'arena era certamente in selenite. Attualmente scomparsa, doveva sorgere nell'area oggi occupata dalla chiesa dei Santi Vitale e Agricola in Arena, in via San Vitale. È conservato al suo interno il capitello di una colonna che probabilmente faceva parte dell'antica struttura. Tracce della cerchia di selenite vennero ritrovate per la prima volta negli anni 20 del secolo scorso dall'archeologo Angelo Finelli, durante gli scavi in via Rizzoli. Questa doveva proteggere la cosiddetta città retratta, ovvero quella parte di area urbana romana in cui i cittadini si ritirarono per difendersi dalle invasioni barbariche. Ciò che restò al di fuori delle mura divenne noto come Civitas Antiqua Rupta, ovvero rovine della città antica. La città della pietra di luna, quindi, occupava un'area sensibilmente inferiore a quella della Bononia romana. Si passa infatti da circa 50 ettari di abitato a poco più di 20. L'accesso alla città era regolato da 4 porte. Porta Ravegnana, dove oggi sorgono le due torri, che apriva la direzione Ravenna. Porta Procula o Porta di San Procolo, dove oggi via Tagliapietre incrocia via De Carbonesi. Porta Stiera, in direzione Modena, ubicata dove si incrociano le attuali via dei Gessi e via Montegrappa. Porta San Cassiano, in seguito Porta Piera o Porta di San Pietro, in via Indipendenza, dove oggi sorge la cattedrale di San Pietro. È su queste 4 porte che San Petronio fece posizionare le celebri 4 croci. In seguito vennero aggiunte altre 3 porte, Porta Castiglione, Porta Nova e Porta di Castello. Una curiosità. Nel VI secolo, durante la dominazione bizantina, la città fu divisa in 12 settori, detti ore, in modo che a ogni ora, del giorno o della notte, la difesa della città fosse di competenza del settore di turno. Una testimonianza di questa prima cerchia muraria è visibile al numero 6 di via Manzoni, inglobata nell'edificio di Casa Conoscenti. Altri reperti sono conservati all'interno del Museo Civico Medievale. Alcune centinaia di anni più tardi, la città ricominciò a espandersi e per inglobare i borghi sorti a ridosso delle mura, la cerchia di Selenite venne demolita per costruire una seconda cinta muraria, la Cerchia del Mille. Anche in questo caso, tuttavia, la datazione risulta incerta. Secondo alcune fonti, infatti, fu costruita prima dell'assalto del Barbarossa del 1163, mentre secondo altri risale all'ultimo trentennio del XII secolo. Con la costruzione della Cerchia del Mille, la superficie della città passò a circa 100 ettari, la lunghezza del suo perimetro a circa 3,5 km, con 18 porte a regolarne l'accesso. Questa cinta muraria è detta anche dei Torresotti, in quanto le porte erano sormontate da torri. Di esse ne sopravvivono ancora 4. Come il Torresotto di Castiglione o il Serraglio del Pratello. Una curiosità. In questo periodo vennero definite le aree di influenza dei vari ordini monastici della città, con la zona ovest ai francescani, la zona sud ai domenicani, a est gli agostiniani e a nord i carmelitani. Questa cerchia di mura si rivelò insufficiente nel giro di pochi decenni. La popolazione decuplicò, incalzata dal boom economico e dalla prosperità dello studium. Si procedette quindi, a partire dal 1327, a suddividere la città in quartieri e a costruire la terza cerchia, con la tecnica della muratura a sacco, ovvero elevando due muri di mattoni paralleli, alla distanza di circa un metro, e versando all'interno ciottoli, laterizi e sabbia. La superficie della città quadruplicò, arrivando a 420 ettari complessivi, per un perimetro di quasi 8 chilometri. Le porte divennero 12 e sono quelle che conosciamo ancora oggi. Alcune erano anche munite di ponte levatoio per scavalcare il fossato che circondava le mura. Queste mura sopravvissero per più di 5 secoli, periodo in cui si avvicendarono vari interventi di ristrutturazione e rifacimenti, fino agli inizi del Novecento, quando sull'onda di un piano regolatore progressista ispirato ai modelli urbanistici europei, nonostante la strenua opposizione dell'ambiente culturale bolognese, vennero quasi completamente abbattute per far posto a una riqualificazione del territorio. Fortunatamente, quasi tutte le porte vennero risparmiate anche grazie all'intervento di intellettuali come Giosuè Carducci e Alfonso Rubbiani, che difesero con ardore l'interesse artistico e culturale di ciò che restava della cerchia muraria. Le porte scomparse sono Porta San Mamolo e Porta Sant'Isaia. Porta Maggiore scampò allo smantellamento dopo che i lavori di demolizione portarono alla luce, sotto la struttura del rifacimento settecentesco, l'antica porta duecentesca. Il restauratore.